24, la storia. Cerco di pensarlo nella gioia del paradiso. Quindi prego per lui. Durante il sequestro del presidente ho sognato che il presidente e mio marito erano sulla spiaggia. Il presidente seduto in terra e mio marito che lo teneva per un filo che aveva messo nelle mani del presidente e lo tirava verso di sé e lo portava via. E in quel momento ho avuto la sensazione che veramente mio marito fosse venuto a portare via il presidente. Ma non me l'ho mai sognato. Ma qualche volta che sogno, diciamo, mi alzo la mattina senza dire niente a nessuno, vado un po' al cimitero, mi faccio un giretto. Oreste Leonardi, maresciallo dei Carabinieri 52 anni, Domenico Ricci, appuntato dei Carabinieri 44 anni, Francesco Zizzi, vice brigadiere di polizia 30 anni, Raffaele Iozzino, agente di polizia 25 anni, Giulio Rivera, agente di polizia 24 anni. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la loro storia. Sono gli uomini della scorta di Moro, uccisi da un comando delle Brigate Rosse all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa a Roma, il 16 marzo del 78. La strage di Via Fani per tutti è l'inizio dell'incubo dei 54 giorni del sequestro Moro nella prigione del popolo delle Brigate Rosse. Questa invece è la vita di quei cinque agenti, poliziotti, carabinieri, che si sono sacrificati per proteggere il presidente della Democrazia Cristiana. Protagonisti involontari di una tragedia che ha segnato per sempre il nostro paese, eroi del quotidiano, dimenticati troppo in fretta. Giovedì 16 marzo 1978, è mattina presto, tra Via Fani e Via Stresa si consuma la tragedia del sequestro Moro. A ricordare quel giorno sono i parenti della scorta di Moro: Carmela, sorella di Giulio Rivera, Vincenzo e Ciro, fratelli di Raffaele Iozzino, Adriana, sorella di Francesco Zizzi, Maria, moglie di Domenico Ricci, Ileana, moglie di Oreste Leonardi. Quella mattina io penso che avrà fatto le cose di sempre, non certo poteva prevedere una cosa del genere. Si sarà alzato, lavato, saranno andati dall'onorevole e saranno partiti. Ci dicevano a fare la loro buona giornata di lavoro, assicurando la massima protezione all'onorevole Moro. Quella mattina ha sostituito un suo collega. Quello era il primo giorno, il 16 marzo, il primo giorno di questo servizio per mio fratello. Lui sapeva il pericolo che correva, lui era molto preoccupato e come diceva sempre, stai tranquilla, tu pensa ai bambini. Il 16 marzo mio marito, come al solito, si è alzato, mi ha portato il caffè a letto, questo è, e poi stava per uscire, è tornato indietro e ha aperto un'anta dell'armadio in alto. Le ho detto: che fai? Dice: prendo le pallottole. Dico: perché prendi le pallottole? No, così le prendo. C'è troppo orrore nell'immaginare soltanto la violenza che ha subito in Via Fani. Siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile. Io quella mattina stavo tra i campi al lato del cuore mio padre. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. C'era la radiolina accesa, purtroppo quella mattina intorno alle 8:30, alle 9, interruppe la trasmissione per dare l'annuncio di questo sequestro di Aldo Moro. E io e mio padre, a quel punto là, io capì subito che era di servizio quel giovedì. Vi sono quattro morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con traditori, il corpo di un altro di questi. La casa si è riempita di gente e poi non...

dentro questi anni c'è stato tanta disperazione, tanta rabbia, tanta angoscia. È stata una lotta veramente atroce, una lotta, è stato un calvario che non finiva più. Pensavo proprio che non è, a momenti, c'erano dei momenti che dicevo non so se gliela faccio. Io avevo fatto però una promessa a mio marito, ho messo una foto di tutti e quattro dentro il fornetto, lì alla cappella, al suo loculo. Gli ho detto: Mimmo, tutti e quattro siamo qui, ti prometto che ti porto avanti i figli come li volevi tu. E questi sono stati per me tutti quegli anni, perché io ho voluto portare avanti i figli come voleva lui. Mix 24, la storia. Mio padre è vissuto per altri 4 anni, mia madre per altri 10 anni. Ha indossato dal primo momento un abito nero, ha asciugato le sue lacrime in quell'abito nero e ha continuato così per tutti e 10 anni. Non ha più indossato abiti di un altro colore. Mia madre lo amava tanto, forse perché era l'unico figlio maschio. Abbiamo vissuto momenti di disperazione, di tristezza profonda, di angoscia, di dolore che è difficile descrivere. Poi lentamente, forse è subentrata una forza superiore, non so come chiamarla, se rassegnazione, forse c'è stato l'aiuto del Signore che comunque ci ha fatto continuare a vivere. Non piango mai in presenza d'altri, piango sempre solo sola, quindi a maggior ragione non l'ho fatto con mia figlia, no, non l'ho mai fatto con mia figlia. Quando abbiamo parlato, lei mi ha scavato dentro, ha cercato di sapere, lei voleva sapere di me, di che cosa ho vissuto. Sì, ho raccontato, ma in maniera pacifica, tranquilla, senza disturbare la sua coscienza. La mia è stata abbastanza disturbata. Bentornati a Mix 24. Avete sentito Adriana, sorella di Francesco Zizzi. Un dolore tutto privato, impossibile da condividere, quello dei familiari delle vittime della tragedia di Via Fani. Eppure questo dramma e il rapimento di Moro rimangono tragedie pubbliche su cui non si spengono mai i riflettori. E allora il tempo dei maxi processi, dei faccia a faccia nelle aule del tribunale con gli assassini. Il primo processo Moro si apre a Roma il 14 aprile 1982. I familiari delle vittime sono invitati a partecipare. Questi i loro ricordi e le loro impressioni. Ce ne parlano Carmela, sorella di Giulio Rivera, Adriana Zizzi, sorella di Francesco Zizzi, Ileana Leonardi, moglie di Oreste Leonardi, e Maria Ricci, moglie di Domenico Ricci. Al primo processo hanno voluto che i familiari fossimo presenti. Sembravano degli scimpanzé dietro a quelle sbarre. Non sembravano manco esseri umani. Cantavano, ridevano, si elogiavano. Sembravano che avevano chissà fatto chissà che cosa. Io non li ho guardati, perché era passato appena un anno. Non avevo il coraggio di guardarli, però ho sentito i loro schiamazzi. Sembravano dei leoni in gabbia, inferociti. Volutamente ho girato lo sguardo, l'ho appena sentiti. Io portavo un palto nero, ma per caso, e ho sentito una donna, non voglio dire una signora, una donna, che diceva: questi lutto non se lo levano mai. Io ho provato un senso di, come dire, di angoscia ma di paura. Tremavo tutta, mi ricordo che tremavo tutta e di paura. E poi mi sono svenuta. Mio figlio che passeggiava davanti a queste gabbie, io non me lo dimenticherò mai l'espressione di mio figlio, la mandibola che andava su e giù. E mia figlia pietrificata vicino a me, è stata veramente un'altra giornata memorabile. Vederli direttamente, vederli signore ben curate, come intellettuali che si presentano per raccontare i loro libri, Mi dà un fastidio enorme. Preferisco ignorarli. Dei 4 brigatisti del gruppo di fuoco del comando di Via Fani, Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli, nessuno è più in carcere. Sentiamo ancora la moglie di Domenico Ricci, Maria, i fratelli di Giulio Rivera, Angelo e Carmela, e la moglie di Oreste Leonardi, Ileana. Ho un nipote che si chiama Domenico, è Domenico Ricci come il nonno. Poi un giorno lui mi ha detto: nonna, ma perché mi hai fatto mettere il nome Domenico? E allora io non sapevo che rispondere. Poi gli ho detto: guarda che tu porti un nome di nonno, perché nonno è stato ucciso. Il nonno è morto per lo Stato. Allora mi chiedo, perché lo Stato ai terroristi o i brigadisti, chiunque siano, bianchi e neri, e perché gli hanno dato tanti benefici? Perché a noi no? Come si fa a pensare agli assassini e non pensare alla famiglia che ha avuto tutte queste tragedie, questi travagli per della vita? E oggi come oggi, che nessuno mi comprende che io ho questi dolori che mi porta ai pazzi, mi sta portando. No, io il perdono non lo accetto. Io come perdono non lo accetto per niente. Se hanno commesso quello là, dovesse morire a vita, non tirarlo fuori, che dice hanno fatto la loro pena, escono fuori, niente, dovrebbero marcire lì dentro. C'è una rabbia dentro, cioè noi siamo cattolici e di fronte alle leggi dello Stato noi possiamo fare ben poco, però come familiari non è, io personalmente non approvo. Io non riesco a perdonare, sono cattolica. Forse sarà, ma non penso che sia un peccato, perché poi la Chiesa non lo considera un peccato non perdonare. E poi come si può pretendere di perdonare? Sono già perdonati in tutte le maniere, non gli serve il nostro perdono. L'ha perdonato lo Stato, li perdonano le istituzioni, l'ha perdonato la giustizia. A che serve il nostro perdono? In questi anni la nostra vita è stata proprio cadenzata da anniversari, da ricorrenze, da manifestazioni, intitolazioni di associazioni, di strade, di piazze, monumenti. E sicuramente queste iniziative ci hanno fatto piacere, ci fanno piacere proprio perché possa rimanere la memoria di questi poveri caduti. Ormai per loro non c'è più niente da fare. Un messaggio è intrinseco in questi uomini e viene fuori lampante, senz'altro educativo per i giovani, per le nuove generazioni, e questo ci sta bene. Per noi partecipare a queste cose, oppure leggere sui giornali queste storie di questi terroristi, insomma, tutto riapre nei nostri sentimenti, nei nostri cuori, riapre quella ferita che non si è mai rimarginata. Sulla lapide che abbiamo nel cimitero c'è una frase del Vangelo che dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, che è la frase che Gesù disse dalla croce. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.